sono io, abbattuto da questa vita che mi sega l'anima. Come un fiore strappato al prato sono io, strappato dal verde sonno del mio grembo materno. Come Gesù messo in croce dai romani sono io, messo alla stregua di questa vita, enorme fardello sulla mia esistenza. Come il signor Valdemar, sotto l'effetto del mesmerismo sono morto, ma continuo a vivere.